Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera abbiamo ospite l'onorevole Stefano Saglia, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega all'energia, che è già venuto a trovarci altre volte. Lo abbiamo intercettato all'Energy Summit che si sta svolgendo in questi giorni qui al Sole 24 Ore e ne approfittiamo per fare il punto con lui sulle politiche del governo per quanto concerne l'efficienza energetica. Buonasera Saglia. Buonasera a tutti voi. Partiamo dal PAE, cioè il Piano Nazionale di Azione di Efficienza Energetica, che è stato da poco consegnato a Bruxelles. Ecco, l'Europa punta al 20% di risparmio energetico al 2020, però nel PAE c'è un obiettivo del 9,6, se ricordo bene, per cento al 2016. Sono conciliabili questi due obiettivi? Bisogna fare qualcosa di più? Allora, sono conciliabili, ma lo devono essere in accompagnamento ad un miglioramento economico. Perché l'efficienza energetica o il risparmio energetico, se si raggiungono certi livelli solo perché si consuma di meno, perché si produce di meno, è chiaro che è un affatto recessivo. Certo. Quindi i dati magari a volte sono ingannevoli, nel senso che sembra che ci si avvicini all'obiettivo europeo, ma se ci si avvicina consumando di meno perché non c'è attività produttiva, non certo, è certo perché teniamo la luce spenta, per non è una cosa positiva. Noi abbiamo presentato questo piano perché ci crediamo che ci possano essere alcune azioni positive nei confronti sia dei comportamenti delle famiglie e delle imprese, sia nella tecnologia, perché nell'efficienza energetica l'applicazione delle migliori pratiche, dei migliori dispositivi tecnologici può fare la differenza e soprattutto è anticiclico, cioè consente di fare crescita economica. Quindi come dobbiamo prendere questo 9,6% al 2016? È un obiettivo che dobbiamo forse superare o siamo vincolati lì? Ma innanzitutto il piano dà degli indirizzi, non è che pone delle questioni, diciamo, al centesimo di principio, dà degli indirizzi e poi di anno in anno si misura qual è l'efficacia delle azioni che abbiamo costruito e poi vengono riorientate. Cerchiamo di essere realisti, anche perché questo obiettivo, a differenza di quello sulle fonti energetiche rinnovabili, che è obbligatorio, cioè se non lo si raggiunge si sanziona, questo è indicativo anche da parte dell'Europa, non è vincolante. Ecco, questo tra l'altro sarebbe interessante capire come mai l'Europa ha fatto questa scelta e cioè ha puntato sull'obbligatorietà per quanto riguarda le rinnovabili e non sull'efficienza energetica. Io mi domando da tempo come mai questa scelta. Beh, qualcuno diceva pensar male si fa peccato, ma appunto ci si azzecca. Diciamo che le tecnologie che giovano di sussidi nelle fonti energetiche rinnovabili sono molto più diffuse nei paesi che comandano in Europa, pensiamo alla Germania, e le tecnologie che riguardano e che lavorano nel campo dell'efficienza energetica sono meno importanti in quei paesi, più importanti in altri, ad esempio l'Italia. Quindi diciamo che il fatto di contare poco in Europa qualche peso lo ha avuto. Bene, bene, come sempre si apprezza l'onestà intellettuale del nostro ospite di questa sera. 55%, che è una misura che in Italia è andata bene, attualmente scade a fine anno questa detrazione fiscale che, lo ricordiamo, viene riconosciuta a chi fa efficienza energetica negli edifici, la prolungherete e si potrà parlare di un incentivo stabile sul lungo periodo? Guardi, il ministro Tremonti giustamente odia quando altri colleghi dicono noi lo condividiamo, poi decide lui. In questo caso però un pochino è vero, nel senso che il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico ritengono che questa misura del 55% sia molto molto importante ed è importante farla per un lasso di tempo adeguato, cioè il fatto che noi ogni anno lo dobbiamo confermare disincentiva gli investimenti più importanti, invece averla magari davanti per 3 anni può mobilitare ancora maggiori risorse. Tecnologia italiana, efficienza energetica, ecco dov'è che il problema. Certamente ha un costo, però se confrontiamo ciò che mobilita in termini di investimenti, ciò che torna all'erario, perché comunque cresce l'IVA, crescono le altre entrate fiscali e soprattutto si supera anche un certo tipo di evasione che, ahimè, in questi settori c'è, il bilancio per lo Stato è tutt'altro che negativo. Si tratta di armonizzarlo con la contabilità, perché chiaramente la Ragioneria Generale dello Stato registra subito l'uscita e più avanti l'entrata, però con un pochino di sensibilità politica io credo che anche i tecnici del Tesoro possano rendersi conto di quanto sia importante prorogarla e quindi noi lavoreremo per prorogarla. Decreti attuativi ce ne sono in arrivo diversi, sia sul versante elettrico sia sul versante termico. Siccome stiamo parlando di efficienza energetica, mi interessa soprattutto capire il versante termico. Che cosa succederà? Ci sarà un conto energia per i pannelli termici, per quelli per l'acqua calda? Stiamo lavorando a questo, ci sarà. Vedremo fino a quali saranno le soglie, quali saranno i numeri. C'è qualcosa per caso che puoi anticipare? Sicuramente lo faremo, e lo faremo con particolare attenzione anche a temi come ad esempio il biogas, che sono temi interessanti, perché se noi andiamo verso una stagione durante la quale ci sarà maggior impiego di gas, avere il solare termico, avere il biogas, avere delle alternative, poter sostituire una quota di gas importato, significa maggiore sicurezza e maggiore convenienza. Quindi per la prima volta abbiamo fatto questo ragionamento, e naturalmente tutto questo sta dentro a due meccanismi: i certificati bianchi, che sino ad oggi sono stati, diciamo, orientati solo alle grandi imprese di distribuzione del gas, e che stiamo cercando di invece estendere anche a imprese di più piccola taglia, semplificando forse in quel caso la normativa, perché altrimenti diventa un bagno di sangue, non è gestibile per, ovviamente, per i piccoli imprenditori. E poi la cogenerazione, che abbiamo appena, diciamo, varato il decreto sulla cogenerazione, che consente appunto l'utilizzo combinato di energia elettrica e calore, che è certamente molto importante per alcuni settori produttivi, penso ad esempio alle cartiere, ma anche qua abbiamo cercato di fare delle taglie di incentivo non solo per i grandi impianti, ma anche per gli impianti di taglia più piccola. Grazie Saglia. Grazie, buonasera a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.